già mi voglio. Sorry, non mi voglio. Ah, di febbraio? Vabbè, io non ho un film. Perché scusa? Ma in giro glielo dovresti consegnare lo stesso, lo sai? Perché? Perché comunque è un documento firmato. Ma da lì? Era montato. No, è vero. Non è firmato. Il mio è firmato. Questa non è la firma. La firma c'è, però è fotografia. Che c'entra? Vabbè, c'entra, perché se io firmo una firma tua e faccio qualcosa. No, mia capenna. Pure mia capenna. Pure mia capenna. Vabbè, sì, per essere formali. Ma io ma pure tu zero, Martì? Tutti zero. Oh, io non ho fatto zero. Okay. Vabbè, perché tu sei. Non ci vado con less. Non serve il consiglio. Se calcola a giugno quante ce ne avevo? Dico 9. Perché io a gennaio? A gennaio 9 ore, febbraio. Oh, Flavio! Complimenti per la gennaio 35. È spettacolare! Te lo giuro, è spettacolare. Di cui. Come fai a capirla? Non lo so. Non lo so. Siamo in te che continuiamo. Però ci ho capito. Vi avevo già parlato del Motor Learning Program? No. Già dal nome è bellissimo. Aspetta. Tu dove mangi il bar? Allora, adesso non è tanto. Ho dimenticato l'ombra di là. Vampire. Ancora non ci siamo ripresi. È stata una maratona. Mamma, un fatto. Io penso che i lavori forzati se spero che tu mi pensavi che succede il giorno prima. Sì, ma io sono abbastanza. Se mi dovessero dare un giorno, penso mai, come dire, la opportunità di esprimermi a riguardo. E spero, come dire, che in un'università come la vostra, che ha un'attinenza pragmatica terribile, è giusto che voi siate qui in un ospedale e che facciate tanto tirocinio. È giusto che voi facciate tante ore di lezione di tirocinio in modo da tenere stile college la giornata impegnata per poi, come dire, non perdersi nessun pezzo e arrivare tutti e 20 quanti siete stati selezionati per entrare, tranne 1, 2, 3, 4, pronti ai 3 anni e finite. Però non sono fatta l'esame. Cioè, io in questo senso, capito? Se io ti garantisco tante ore, ti obbligo a starci nelle ore, con la frequenza obbligatoria, cioè è anche, come dire, normale che, come dire, che devo agevolare sull'esame, no? Se faccio tante ore, ma il progetto vuol dire che punto sul fatto che debbano passare, quindi per organizzare delle prove in linea, eccetera, eccetera, per arrivare all'ultimo esame, che uno chiaramente ha due giorni per studiarlo, o anche meno certe volte, non è che poi farà un programma intero, altrimenti il fallimento del sistema. Beh, in media sono 10 ore al giorno, ci sarei solo. Sì. Dalle 9 di mattina alle 5 di pomeriggio. Cioè io direi sulla qualità eviterei le sovrapposizioni di argomenti che una cosa di faccio. Abbiamo fatto due esami identici. Ma no, anche medicina. Io a medicina quando ho studiato a Bologna c'avevo una tabella di diciottesima, cioè 56 esami, adesso li hanno un po' accorpati. A me il diabete me l'hanno spiegato in 30 esami. Su 56, di cui un professore, quello di neurologia generale, ci ha dedicato 10 lezioni e me l'ha fatto capire, gli altri hanno provveduto a farlo dimenticare, a comprendere le idee, capito? Cioè, un conto è vedere vari aspetti, però implica una sinergia, capito? Cioè io che ho fatto la terapia fisica, va bene, quest'anno non era l'argomento mio, quindi cioè a me mi sono comunicato una settimana prima, ho preso delle lezioni, quindi non ho avuto modo, come nell'altro corso, come questo qua, di crearmi delle cose mie che vengono da dentro, cioè dal mio bagaglio culturale, no? Però quantomeno, cioè, come dire, mi sarebbe piaciuto se il sistema organizzativo mi metteva di fronte anche a altri professori che si occupano di questa, e sinergizzavamo le forze, capito? Vabbè, ma noi che possiamo fare? Adesso non volevo fare le armi. Io vi posso dire da parte mia che, cioè, capisco le vostre, e se mi sarà data l'opportunità, insomma, provo sempre a dire a... anche perché, insomma, non è che sono studente 100 anni fa, quindi determinate questioni mi stanno particolarmente a cuore, no? Come il fatto che comunque la responsabilità anche delle ore che uno, cioè, vuole essere pagate, cioè, io capisco che uno si aspetti qualità e una quantità. Sì, comunque, esami denti. Piano piano, comunque, fantastico. Però in 3 anni la sto vedendo un pochettino che determinate cose migliorano, eh? E lasciano bene la presa giro. Poi comunque voi vi portate la possibilità di giro per fare un'esperienza impagabile. Il corso di laurea che faranno a... veramente te lo guardate. Allora, andiamo per 30 minuti di corsa. Allora, concentrati e cercate di capire quanti più minuti possibili. Questo fatto, allora abbiamo detto, stavamo parlando della tempistica, quindi riabilitazione, quanto più precoce è, tanto maggiore sarà il recupero motorio. Quindi il concetto della precocità è un concetto importante. No ragazzi, ci stanchiamo di noi. Ok? Allora, hanno fatto degli esperimenti in cui praticamente sia negli animali, perché chiaramente non si può fare per ragioni etiche dell'uomo un esperimento simile, no? Cioè la probabilità di ridurre il recupero in maniera così importante è già antietico, per cui dei topolini hanno indotto una lesione ischemica e hanno riabilitato l'arto del topolino facendo riabilitazione 3 giorni, una settimana e un mese dopo. Ragazzi, state zitti. Ho fatto fare la pausa per farvi chiarire, per farvi sfogare tutto, no? Insomma, al massimo 35 minuti di attenzione non sono una cosa devastante. E hanno visto che il topolino recuperava in base a quanto prima veniva effettuata la riabilitazione. Per riabilitazione che cosa si intendeva? Qua adesso bisogna mettersi anche tutti d'accordo. Innanzitutto, chiarito la questione del tempo, chiariamo la questione dell'intensità. L'intensità è anche un fattore, c'è un autore che si chiama Wackel, che ha fatto numerose meta-analisi, cosa vuol dire? Ha raccolto tutti gli studi che sono stati fatti, tipo 6-7 anni fa ha detto, e la riabilitazione ha recepito, e ha, per tutti ormai lo sanno, che l'intensità della riabilitazione è un fattore importante. D'altra parte, se ci pensate, il paziente stesso ha sempre cercato di, no? Cioè la prima cosa che viene da fare quando una funzione è perduta e riallenarla, ok? Però non era un concetto così chiaro, e poi soprattutto bisogna mettersi d'accordo su quanto è questa intensità e su quanto è che diventa negativa. Però sicuramente l'intensità è un fattore determinante, cioè fare più terapia, fare più ore di terapia sono funzionali al recupero. È una frase che non può essere isolato da un contesto. Qual è il contesto? La probabilità di fare cose negative, la capacità cardiovascolare del paziente, ok? La capacità funzionale del paziente, no? Poi, per quanto riguarda un attimino invece poi l'intensità, cioè oltre all'intensità ci sta anche la compito specificità, cioè parlando della qualità di questa riabilitazione che deve fare, che bisogna fare, nel neuromotorio, uno dei fattori emergenti è questa compito specificità, cioè che il compito deve essere rieducato nella maniera più specifica e vicina alla funzione da allenare. Cioè se io devo allenare la presa, devo fare la presa. Ok? Se io devo allenare la deambulazione che non c'è, il paziente deve fare la deambulazione. Come, se non lo posso fare? Con i mezzi a disposizione. E quando serve anche il robot. Questo concetto della compito specificità è un concetto, come dire, molto molto importante. D'altra parte, se voi pensate anche a, come dire, un non all'apprendimento, ma pensate solo all'apprendimento normale. Voi ci avete 18 anni, dovete imparare a guidare, ok? Le prime volte era come guidate adesso? No, c'era una programmazione dell'apprendimento, no? Il compito veniva scomposto in pezzi, dove c'era un aspetto cognitivo, cioè veniva spiegato il compito, poi voi lo riproducete, riproducevate anche a pezzi, poi dopo univate vari pezzi e cercavate tanto sforzo di fare tutto assieme, perché ce n'è voluto di tempo prima di non pensare di premere la frizione nel momento in cui si cambia la marcia, no? Le prime volte diventava un atto cosciente volontario, poi dopo è stato mandato in sosso corticale, è diventato un gesto tutto unico armonico, e in questo ragazzi sicuramente penso che abbia influito l'intensità del training, no? Cioè quando vi fanno fare le prove guida, farne una o farne 10 cambia l'esito della vostra guida. Ed è questo a cui mi riferisco. Cioè tante ricerche di neurofisiologia e tante ipotesi di neuroriabilitatori si basano sul concetto che il riapprendimento ha molti aspetti in comune con l'apprendimento normale. Mi avete capito? Questa è una fase della regolazione posturale, fornire al paziente regolazione posturale, fornire al paziente degli schemi, degli accorgimenti che poi lui andrà in mettere automatico, nel senso, sì. Tornando al discorso del corso scorso, del semestre. Sì, assolutamente sì, ma infatti tante cose della neuroplasticità e del recupero motorio che prima erano solo appannaggio della terapia, della neuroriabilitazione, cioè adesso nella riabilitazione ortopedica non è che si è tanto slegati, le cose si intrecciano e si intrecceranno sempre di più man mano che si comprende l'encefalo, è chiaro, quindi si parla di cose più raffinate, perché un paziente ortopedico parte da una qualità di funzionamento che è maggiore, voglia dire, una frattura non è una plegia, capito? Rispetto a il neuromotorio. Quindi questa compito specificità, guardate che non vi sto dicendo delle cose che vuol dire sono banali, altri miei colleghi fisioterapisti, insegnanti, poi mi parleranno anche di altri aspetti, cioè quello che esaltano e mettono in luce le terapie, le teorie della neuroevolutività, quindi la gerarchia degli schemi motori, no? Ci riferiamo classicamente a Bobat. Però sono dei concetti diversi, prova non è il concetto della compito specificità e io non dico che o l'uno o l'altro, io dico che sono degli aspetti diversi e vanno entrambi allenati, no? Cioè sto mettendo un elemento importante che può essere determinante nel lago. Poi ancora dobbiamo chiarirlo bene, di sicuro è un errore, è troppo grossolano nel 2011 non valutare questa cosa, capito? Quindi è sempre il solito concetto dell'integralismo riabilitativo, cioè io interpreto tutto secondo quella metodica, niente di più sbagliato, capito? Ma lo sarei anche io se volessi interpretare tutto con queste metodiche, no, perché queste insomma hanno delle pecche chiaramente, solo per il momento bisogna fiancarle, quindi valutiamo anche questi aspetti. Questa qua è uno spunto di riflessione, no? In cui c'è, in questo lavoro pubblicato su Stroke, la rivista più importante di riabilitazione, facevano vedere non in Italia, in Inghilterra e in America, dove i terapisti anche in Inghilterra hanno la stessa formazione nostra nel neurologico, cioè un 85-90% dei terapisti tratta il neurologico con il metodo della neuroevolutività, quindi BOVA, quindi bene o male in quello siamo abbastanza omologati, e, ma non c'entra, qua si parla nei primi 14 giorni delle acute stroke unit care, però quindi non c'entra solo il pensiero della riabilitazione, qua c'entra anche la politica, perché se nella stroke unit non ci sono i terapisti adeguati, una ragazza dovete fare, si deve, oh, dai, cioè se c'è qualcosa di veramente importante, se no, ci faccio tanto fatica, sono concetti difficili, abbastanza difficili. C'entrano anche questioni politiche, no? Quindi questo è da tener conto, perché se uno Stato, se la Polverino ci dà i soldi per trattare il paziente, non è che noi non lo vogliamo trattare, capito? Quindi in questa che è una fotografia c'entrano anche aspetti sociali e politici, cioè chi ce lo viene a dire a noi che nelle stroke unit il direttore sanitario non pagava adeguati terapisti per fare adeguate ore di terapia, no? Però questa è una cosa che succede anche in Italia. Però questo intanto fa la situazione, e la situazione è devastante, cioè un paziente che ha un ictus, 60 anni, prima guida la macchina, porta il nipotino all'asilo, va a fare la spesa, cucina, zappa l'otto, un giorno c'ha l'ictus. Cioè una persona passa da una vita fatta di abilità, di impegno locomotorio, di funzione cardiovascolare normale, ok, a essere immobile a letto, quindi nei primi 14 giorni il paziente passa più del 50% a letto e solo il 13% del tempo è speso ad attività che potenzialmente sono utili al suo recupero, capito? Questa è semplicemente la fotografia, il provocatorio, non dico che cioè, è complicato, perché impegnare più tempo a fare cose utili per il recupero c'entra anche un aspetto economico. Però c'entra anche un aspetto culturale. Noi abbiamo avuto una cultura che nel recupero neuromotorio, per il momento, bisognava fare solo quell'ora di terapia, fatta solo dal terapista. Nel resto del tempo, niente, tutto poteva essere molto dannoso, incluso i familiari che facevano qualcosa, il paziente che tentava di fare qualcosa. Quindi, invece adesso si è andati anche un po' oltre, non è solo l'ora di terapia che serve, no? È un continuo stimolo affinché queste reti si possano indirizzare, quindi la disposizione della stanza. Cioè, il Santa Lucia non è costruito da un architetto da Fuzzas che guardava le linee, insomma, esteticamente, è costruito da un architetto di neuroriabilitazione. Gli spazi sono concepiti in modo tale da favorire questo networking di cui si parla nella plasticità cerebrale, no? Cioè quello che c'ha neglect non viene messo con la parte che neglige faccia al muro, capito? Perché altrimenti noi non miglioreremo mai il nostro recupero, anzi si istruiscono i familiari, lo farete anche voi, a cercare di parlarvi sempre della parte negletta, da stimolarvi sempre quella cosa, ma non siete solo voi della vostra ora di terapia, è tutta l'equipe, tutto l'ospedale, da quando entra la caposala dice, dovrebbe dire, poi chiaramente io dico l'ideale, poi lo scontro, cioè uno si, nella riabilitazione non ci sta, è la disciplina in cui, come dire, c'è il problem solving, che faccio con quello che ho a disposizione in maniera più incredibile, no, rispetto alle altre, però si dispone la stanza in modo in cui la parte stimolata delle attenzioni, la finestra, il comodino, si mettono tutte dalla parte negretta, no? Perché io mi devo sforzare di là, come che non ce l'ho, sarebbe troppo facile dire metto di là e allora quello se ne va a casa che sta così, no? Un neglect da paura è un recupero che non è avvenuto, perché come sapete chi ha neglect recupera meno che gli altri, chi ha depressione recupera meno che gli altri, ci sono dei fattori del neurologico. Quindi insomma il concetto della riabilitazione è un po' più globale, bisogna uscire da quegli schemi in cui la riabilitazione si fa solo un'ora, solo col terapista e solo, insomma è una presa in carico un po' più globale, dove il fisioterapista ha un ruolo chiaramente importante, principale e fondamentale, ma ci sono anche altri concetti e dove il tempo e l'efficacia di questo tempo dedicato a un ricovero deve essere aumentato, come dall'altra parte, ma mettiamoci nella condizione opposta. In base a quello che sto dicendo, cosa vuol dire? Che se io al paziente gli faccio fare invece che 2 ore di terapia, gli faccio fare 10 ore di terapia, recupera di più? La risposta è no, 10 ore di terapia potrebbero essere troppi, potremmo essere in quell'ambito negativo in cui insorge fatica e quindi non è più efficace. Ok? Il paziente non lo può fare, non lo vuole fare. Ok? Perché quando voi imparavate a guidare la macchina, ritornava da casa col mal di testa, perché apprendere è faticoso. E dopo che è diventato un atto normale, così come il paziente, quando voi gli state dicendo provi a alzare la mano, anche se lui non la sta alzando, fa fatica come se stesse sollevando un quintale di pietre, no? Se ne avete qualche dubbio, andate a vedere al primo piano dove stiamo facendo degli esperimenti con Molinari sulla motor imagery, che è un altro campo veramente importante che si sta affermando, cioè l'immaginazione motoria come riabilitazione. Questi pazienti immaginano il movimento, e andate a chiedere al paziente come si sente dopo un'ora che ha fatto 90 travi all'immaginazione del movimento, non ha mosso niente, anche se il paziente può fare, gli si dice di non farlo. Deve solo immaginare di prendere delle cose, è stanchissimo, ok? Quindi il riapprendimento costa, quindi questa intensità deve essere dotata da altri fattori, fatica, stanchezza, aspetto cardiovascolare, circolatorio, eccetera, eccetera. Comunque nel mondo attualmente per le terapie, per la neuroriabilitazione, in particolare lo stroke, la sensazione è che si faccia poco, ok? O meglio, che ci sono ancora dei margini per poter incrementare la probabilità di recupero di questi pazienti. E entrare anche in altri campi che finora sono stati proprio totalmente appannaggio del paziente ortopedico, che sono tipo la potenza e l'endurance del paziente neurologico, cosa che invece in futuro ci saranno sicuramente. Dunque, per cercare, noi questo lo faremo, no? in due corsi opzionali, per quanto separati un pochettino, cercherò di fare un discorso complementare anche. Nell'altro parleremo di come descrivere il paziente. Nella descrizione del paziente, io ho a disposizione degli strumenti, perché nella descrizione io devo misurare il paziente, no? Questi strumenti possono essere le parole, e le parole mi servono molto nella pulire dell'altro. Qualità, la descrizione della qualità, o vuol dire nel dare all'altra persona che mi ascolta una immagine di come questo paziente può camminare o può stare, o a che livello può stare del mio protocollo di riabilitazione. Immaginate sempre che dovete comunicare voi, che arriva un paziente che si è trasferito oggi da Sydney, prendete e dice devo fare riabilitazione, la facevo a Sydney, voi dovete prendere una cartella riabilitativa e essere in grado di continuare quel protocollo di riabilitazione. Cioè si parla di concetti universali, le scale che facciamo qui le fanno anche là, e si può fare. Quali sono queste scale? Parleremo soprattutto queste scale, poi magari le vedremo anche un po' meglio nell'altro corso che faremo a fine marzo, assieme a qua la caratterizzazione. Però dato che parliamo di robot, soprattutto di robot dell'arto inferiore, quello che vi voglio soprattutto far vedere sono quelle più importanti. Pochettino, il Bartel, ne abbiamo parlato già altre volte, sapete a cosa fa riferimento il Bartel? A cosa fa riferimento? Ah, sì. Cosa misura? Autonomia. Le capacità di autonomia. È una scala di abilità. Ok, sì, l'autonomia anche. Misura l'assistenza necessaria o di contro l'abilità del paziente, no? Cioè su una scala di 100 l'abilità arriva a 70, vuol dire che quell'altro 25 è l'assistenza che uno gli deve dare. È diviso per item, non implica il cognitivo, e quindi di abilità. Per esempio, se io devo guardare la deambulazione nel Bartel, è vero che è molto importante, però ci sta la mobilità, non la deambulazione, sono due cose diverse. Che differenza c'è tra la mobilità e la deambulazione? La mobilità è un parametro generale, la deambulazione è una competenza specifica. Entrambe implicano lo spostamento del mio corpo, ma la deambulazione è una competenza specifica, cioè lo faccio con le mie gambe, è come il reaching, no? Prendo il telecomando, cammino, quella è la deambulazione. La mobilità, io ci posso andare anche in carrozzina lì autonomamente, cioè ho un'autonomia nella mobilità, ma non lo sto facendo con le mie gambe, no? Cioè nella Bartel, quando la deambulazione è zero, si compila l'ultimo pezzo che è la mobilità, cioè la mobilità in carrozzina, se la deambulazione aveva un punteggio 15 al massimo, questa ne ha 5, comunque ha un punteggio, no? Cioè nell'autonomia conta, perché se io posso andare, devo andare a spegnere quella luce, ci vado e la spengo, io sono autonomo, non l'ho fatto con, cioè però non ho chiamato nessuno, no? Così per il bagno e tutto, però è un concetto diverso, implica subito quella divisione che facevamo prima di dire, recupero di una funzione mia e recupero di una funzione mediante una sostituzione, sostituisco la mia, il mio meccanismo locomotorio con una sedia a rotelle, che può essere elettrica, non elettrica, che cammina col mio pensiero, comandata dal mio cervello, con la con il brain computer interface, solo che penso, quella si muove, vado là, può essere con quelle muovi, ma è sempre sostituzione, motor substitution. Ok? L'ashot misura la spasticità, ed è importante, il trunk control test, che è quello che vedete sopra, è un test di funzione del tronco che si utilizza soprattutto nelle prime fasi dei pazienti gravi. Poi, andando invece nel... Questa qui ve l'avevo fatta vedere invece la FAC, vero? Non è uscita. Ve l'ho fatta vedere? Nel corso? Una volta è così, vai. Questa è importantissima. Tanti terapisti adesso la stanno comunque prendendo in considerazione sempre, si usa non solo negli studi clinici, ma anche nella clinica. Cioè, dall'Antartide all'Artide, per farvi capire com'è il paziente, come cammina, si parla di autonomia del paziente, cioè di quante persone ci devono stare vicine e se ci devono stare. In questa scala non ci interessa i metri che fa, non ci interessano gli ausili che porta, ok? E non ci interessano le ortesi che porta. Ci interessano, ed è importantissime, è importantissimo perché è il primo strumento di valutazione della deambulazione, quante persone ci devono stare vicino. Ok? Sono 6 livelli, da 0 a 5. 0, il paziente non è in grado di camminare, oppure ce ne vogliono 2 persone che lo sorreggono e quello fa qualche passo. 1, dipendenza, il paziente richiede, quindi FAC 1, FAC 0 è quello di mio, FAC 1, il paziente o non cammina o con 2 persone qualche passetto, no? Sopra le spalle, sì. Livello 2, cioè livello FAC 1, il paziente richiede continui ed energici supporti di una persona nell'aiutarlo nell'equilibrio dei trasferimenti, no? Che tipo di paziente, che lui si alza dalla sedia, però se si alza cade, quindi voi lo prendete, qualche passetto lo fa da solo, ma al quarto passetto voi lo dovete comunque mantenere, è un aiuto per l'equilibrio o per i trasferimenti. FAC 1, persona sempre presente vicino, ci sei, ci siete, FAC, questa è la 1, la 2, l'aiuto è un po' minore, ok? Per l'equilibrio e la coordinazione, però c'è sempre il contatto fisico, cioè lo so, o intermittente o continuo, però è solo per la coordinazione e per l'equilibrio. Invece la FAC 3 è la supervisione del paziente, cioè il terapista continua con la persona, non è solo il terapista, il caregiver, il fratello, chi sia, continua a doverci essere, ma solo perché magari inciampa, magari si deve alzare meglio il... no? Cioè un po' per sicurezza, un po' per dare delle esortazioni verbali, cammina meglio, non strascinare, alza, però ci vuole la persona. Quella è, anche se lui fa da solo, nel momento in cui io medico o voi fisioterapisti gli dite cammini con supervisione, è autonomia del cammino? No. No, no, questo è importante. Non è una cosa banale, eh? Cioè quello. Quante schede ci sono, cammina autonomamente con supervisione, una condizione in essere proprio, no? Quindi, però comunque quella persona non è autonoma nel cammino. Cioè se una persona, per dire, anche in tutta quella valutazione che dicevamo della valutazione della strumentazione robotica, quando uno esce dalla clinica con FAC 3, non è autonomo nel cammino. Cioè se il mio obiettivo era perché l'obiettivo principale del recupero della deambulazione non è crescere il più possibile, quello sì anche, ma l'obiettivo principale è un fenomeno tutto niente, autonomia della deambulazione. Ci siete? Cioè, è più importante questo passaggio da 3 a 4 che da 0 a 3. Mi capite? Paradossalmente, perché da 0 a 3 comunque devo adottare altre strategie, a questo paziente gli devo insegnare ad andare da solo in carrozzina bene, perché altrimenti devo presupporre l'idea che una persona possa sempre stare con lui, perché nella qualità della vita delle persone la motricità volontaria è così importante, quindi o assumo che lui vada, invece di andare con supervisione, va anche da solo e cade, no? Oppure adeguo la mia quantità e qualità di abilitazione per fare questo passaggio. Poi da 4 e 5, perché da 3 a 4 sconfiniamo, cioè da qua in su siamo nell'autonomia del cammino, da qua in giù siamo nell'autonomia del cammino, da qua in su siamo nel cammino con dipendenza. Quando siamo a quel 4 vuol dire che lui è autonomo ma su superfici piane, cioè è autonomo in casa, va in bagno, si cucina, ci dava sul divano, però nel momento in cui deve avere le scale, deve andare fuori a fare la spesa, deve andare sul terreno accidentale, ha bisogno di aiuto, ma questo ci può stare, già un livello molto accettabile di qualità della vita. 5 quando fa tutto, è tornato come prima dell'ictus, capito? Questa scala è importantissima ed è banale, semplice da ricordare, quindi non solo in ricerca ma anche in clinica ormai. Molte lettere di missioni che hanno le scale dicono il paziente è autonomo sul cammino piano in casa, tra parentesi fa 4. Ok? E questa guardate che è la base di partenza per ogni valutazione e descrizione di un paziente. Poi c'è la Bell Balance Scale, che è una scala, questa è un po' più complicata, mentre Bartel e FAC, anche un terapista che ha 40 minuti per trattare il paziente, gliene rimangono due per fare, per descrivere il paziente, quelle di prima le deve fare, questa qua la vedo un po' più complicata perché comunque ci vuole un quarto d'ora, 10 minuti, un quarto d'ora, quindi si usa per ricerca, ed è la capacità che il paziente ha di stare in equilibrio, ci sono 14 task in cui si vede il passaggio posturale, si vedono i trasferimenti, la stazione retta ad occhi chiusi, la capacità di stare in tandem, la capacità di raccogliere una cosa a terra, e da qui si riesce a ricavare una quantificazione oggettiva del suo equilibrio. Poi, per la quantificazione del cammino, ci sono i time and test, i test a cronometro. Questi sono importanti, non so se qualcuno ha fatto più vicino al sesto piano alla fine dello stroke li facciamo sempre. E non è solo per ricerca, loro non erano abituati a farli, no? Quindi con Paolucci, da quando sono arrivato io, comunque li facciamo i test, ma non è solo per ricerca, quello è un utilissimo quantificatore dell'abilità e della capacità del cammino, ok? Tant'è che nell'Argos, nella strumentazione di chiusura delle cartelle cliniche del Ministero, quello secondo cui la Regione paga, c'è scritto proprio oltre al Bartel, ci sta la voce 6 minute work test, ok? Cioè capacità del cammino, nel senso qual è il pericolo e qual è il problema, no? Allora, partiamo con calma. Quello che vedete sotto è il 10 meters work test, test del cammino sui 10 metri, io metto una tratta di 10 metri, scotch, dico al paziente cammina, chiaramente nelle condizioni di sicurezza, nel livello in cui sta, cioè se ci vuole il terapista vicino ci metto il terapista vicino, se ha bisogno del tetrapode gli do il tetrapode, cioè nel livello in cui è arrivato in quel momento, e gli dico provi a camminare partendo direttamente sul cerotto o lanciato, cioè un passo prima e poi quando attraversa la linea io, cioè che evito l'accelerazione, no? Faccio partire il cronometro, arriva di là, tolgo il cronometro. Questo si fa alla velocità self-selected, cioè per vedere la velocità del cammino del paziente, oppure posso provare se sta bene la velocità massima, cioè provi a farlo veloce. Nel primo caso si dice cammini nel suo miglior modo e normale possibile, nell'altro chiedo il test di velocità. Quindi questo qui vedo la velocità del cammino su una tratta. Qual è il problema di questo test? Che da solo, fatto da solo, mi può sovrastimare le abilità del cammino, ok? Perché meno male è quello che fanno sempre il neurologo, fisiatra e fisioterapista, no? Non vedono il paziente camminare per una lunga tratta, li vedono fare 5 passi e dicono ok, bella, cammini. Anche perché il paziente si vuole sentire quello, i familiari non vedono l'ora di sentirsi quello. C'è il rischio, non intuiti, che questo paziente torna a casa, dice ok, posso camminare, la prima volta esce di casa, va a prendere il giornale e casca, si rompe il femore e torna in ospedale. Ok? Si interrompe più il circolo della vista. Esatto. Come si può ovviare a... Tanto c'è un bel esempio di lavoro, qua non ti lamentare, ce ne sarà anche quando tutti stra con età avanzata e disabilità avanzate, insomma per voi come per me non penso che ci abbiamo problemi di lavoro. Il problema è cercare di farlo meglio e ottimizzare le risorse anche dello Stato, perché se non ci sarà il lavoro è perché poi dopo non ci sono nuovi soldi per la sanità. Il 6 minute work test invece è diverso. Io su una tratta di 20 o 30 metri dico a un paziente di camminare avanti e dietro, e questa volta non appunto la velocità di cammino ma appunto i metri percorsi, ok? Questo è un test molto importante che da una ventina d'anni lo fanno i cardiologi dopo un intervento di riabilitazione e gli pneumologi, perché è un indice di capacità del cammino. Uno fa l'infarto, si fa il bypass strumentato, dice vediamo quando riesci a camminare prima che ti insorgono i sintomi, no? Non è una prova da sforzo, è un test di capacità del cammino. Ma è importante anche nella riabilitazione. Perché? Perché la fatica è importante anche nel nostro recupero motorio, perché se a un certo punto il paziente per 10 metri cammina bene perché gli ho insegnato bene a camminare, però non ho valutato che dopo 3 minuti insorge fatica, tutte le prestazioni motorie crollano e quindi cade, fallimento del progetto riabilitativo. Obiettivo sbagliato, ok? Ed è una cosa molto molto frequente, no? Io ho fatto su, mo ci sono due ragazzi dell'anno precedente che si stanno occupando anche un pochettino del rischio di caduta. Abbiamo chiamato per un anno 120 pazienti con stroke per vedere chi cadeva, no? Dopo 2 mesi, sapete quante persone che hanno recuperate dalla Santa Lucia, non da Martina Franca, cadevano il 75-80% dei pazienti, di cui il 30% di questi si fratturavano. Sempre c'è margine per fare qualcosa di più, ok? C'è margine di fare qualcosa di più, e uno degli indicatori, cioè il rischio di caduta, senza dilungarci troppo, è una cosa troppo complicata, non la valuta solo la balance scale, non la valuta tutti i test che ci posso mettere, perché implica anche la volontà, non è un fenomeno che dice io voglio osservare la caduta della sfera sul suolo, no? Cioè c'entra la gravità, la grandezza della sfera, varie cose, quindi così la caduta c'entra il cognitivo, i farmaci che prendo, se ci sto con la testa, l'equilibrio, la forza, se è più debole cado di più, questo lo so, ma c'entra anche una volontà del paziente, cioè se io so che posso camminare fino in là o voglio, lo faccio, quando non lo posso fare, cado chiaramente. Quindi da questo rinasce l'importanza del 6 minute walk test, che nessuno fa perché si annoia, però invece se vedete i terapisti al sesto piano che lo fanno, quello là anche al terapista, un respiratore, esatto, ma quello è per una questione dell'aspiratore. Noi al sesto piano nello stroke lo facciamo per vedere, affinché il terapista anche abbia un'idea di come è la capacità del cammino, cioè se un paziente su 6 in 6 minuti fa 100 metri è chiaramente un paziente che è limitato, ma soprattutto quello più problematico, il paziente che parte spedito a correre, cioè bene, ma dopo 2-3 minuti o si ferma o si stanca o peggiora il cammino proprio, no? È lì che il terapista deve dire ai familiari, guardate, c'ha un ottimo schema del passo, cammina bene, ma sulla capacità del cammino ancora non ci siamo, per cui se è una passeggiata lunga va sorvegliato, se deve andare fuori va sorvegliato, capito? E poi c'è il time up and go, che è un compito più complesso. Il paziente si è alzato dalla sedia, percorre 3 metri intorno al bivio e si risiede. Questo, oltre al cammino, valuta anche un cambio di direzione che c'è anche nel 6 minute e anche il trasferimento, scusate, il passaggio posturale seduto in piedi. Ok? Vi lascio? Vi date il foglio? Vediamo poi la prossima volta le altre. Le altre. Spegni il posto coso.